Sociale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera leggeremo alcuni stralci di discorso presi dalla lezione accademica di Gail Dines, che è un'esperta in Women's Studies, autrice e attivista femminista presso la Facoltà di Sociologia all'Università di Gerusalemme, dove si è tenuta questa lezione il 19 dicembre del 2012. E il titolo della lezione è «Come il porno crea il cliente, il porno, la tratta e la costruzione sociale della maschilità». La teorica in questa lezione spiega in che modo l'industria del porno e l'immaginario che questa veicola contribuiscano alla costruzione sociale della maschilità e alla creazione della figura del cliente, indirizzando la domanda verso la tratta sessuale. La lezione di Gail Dines si apre con un giudizio di merito sugli uomini e sul femminismo, molto simpatico. Il femminismo, dice l'autrice, è l'unico movimento che, a differenza dei pornografi, non considera gli uomini il prodotto della biologia dominante, ma riconosce loro piene capacità umane proprio come le riconosce alle donne, e respinge l'idea che la loro sessualità debba essere socializzata culturalmente in modo tale che bambini, adolescenti e uomini di tutte le età e di tutti i paesi crescano per diventare consumatori e promotori di pornografia e, in ultima analisi, di prostituzione. Perché, come dichiara nelle sue premesse, la pornografia è la forma prevalente di educazione sessuale che vige oggi in Occidente. Non esiste nulla di più potente della pornografia sotto forma di educazione sessuale, già che la pornografia, per come si manifesta e per come viene usata e diffusa su internet, dai media e dalla cultura popolare dei consumi, è la via maestra che conduce bambini, uomini, ragazzi al cliente. Ma vediamo come Gail Dines argomenta via via il presupposto secondo cui la pornografia e in generale l'industria del sesso siano il centro pulsante del nuovo sistema neocapitalista e di come pornografia, tratta e prostituzione compongano un nodo inestricabile che attraversa di netto in modo continuo la nostra cultura, il nostro immaginario sessuale e le nuove forme di erotizzazione, di sessualizzazione e fino anche di socializzazione che caratterizzano attualmente il mondo degli adulti, uomini e donne, in modo particolare quello dei bambini e degli adolescenti. I'm innovative at the intro, cause I go slow-mo, but never slow pulse, but never no joke. Dope, but never no cope. Spits the riddles like phlegm, loose with my lyrics like a double-jointed limb. Twist and a bend, coming episodes past freak modes. The monstrous bits beneath my pace be like Morse code. Slash beep, scanners, zero into the systems in your deeps. I'm out there with cool keep and safety and daylight. Inventors of my phone, seeing I. Futuristic vision, I'm not among loony nut kicks up on no mission. I get somewhere I fit in, cause life's too short, so you could all label me weirdo, but yo, I know it's time, it's time. Iniziamo col domandarci cosa fanno i media. I media e la cultura popolare rendono la prostituzione accattivante e perfino ignorano, sorvolano o riabilitano l'immagine del cliente. Quindi cominciamo col film che ha messo in atto di fatto questa operazione, Pretty Woman. La storia è quella di un cliente che si innamora della sua prostituta e poi vivono felici e contenti. Questo è un gran film, ha incassato milioni di dollari, miliardi con tutta probabilità. E cos'è che fa sempre Hollywood quando un film fa così tanti soldi? Fa sempre una seconda parte del film. Quindi la domanda è: qual è la seconda parte di Pretty Woman? Ed ecco la seconda parte del film. Fanno questo fantastico matrimonio in cui una prostituta sposa il suo cliente e vanno a vivere nella loro bellissima casa. Ora, quante ex prostitute pensate che vivano in quel lusso matrimoniale e felici e contente assieme ai loro ex clienti? Capite perché sono riusciti a girare la seconda parte di Pretty Woman? Eppure le donne sono andate a vedere questo film, giusto? Ora, io vivo negli Stati Uniti e quando parlo ai miei studenti neri, di solito dico loro: ora farò un film e lo chiamerò Amore nella piantagione e sarà una storia d'amore tra una schiava nera e un possidente bianco e tutti balleranno e canteranno nella piantagione perché la schiava è davvero contenta col suo possidente. Ora, quanti studenti neri pensate che vadano a vedere questo film? Perché è ridicolo, dico bene? Eppure le donne sono andate a vedere Pretty Woman e credo che sia un segno di quanto le donne siano colonizzate, di quanto il patriarcato si sia insinuato nella loro testa a modellare la nostra identità. Chi è la star del cinema che ha picchiato una prostituta talmente tanto che lei lo ha querelato per ripagarsi le cure mediche e per risarcimento? È Jack Nicholson. Ho la scannerizzazione della denuncia portata in tribunale dalla donna contro di lui e nella denuncia spiega come lui l'avesse picchiata e le avesse scaraventato la testa addosso al muro perché non voleva pagarla dopo aver fatto sesso con lei tutta la notte. Quindi vedete come collaborano i media in silenzio in modo da rendere tutto ciò invisibile? E quell'anno dopo l'incidente lui era nella prima fila degli Oscar senza che nessuno dicesse nulla. Elias Pizza, il cliente di prostitute più famoso d'America. Prima di diventare cliente era governatore di New York City e prima di finire in tribunale spendeva centinaia di migliaia di dollari al mese in prostitute e stava per importare quello che è conosciuto come il modello svedese, la legge antiprostituzione più progressista. La stava per far adottare a New York City, ma poi venne processato. Centinaia di migliaia di dollari al mese. Era così violento con le prostitute che si trovavano con lui che spesso queste riportavano ferite sul corpo. Spesso spostava anche le prostitute da un lato all'altro, che negli Stati Uniti è considerato alla stregua della tratta, spostare persone da una parte all'altra del paese. Ora però è stato riabilitato e gestisce un varietà televisivo. Hugh Grant, Jerry Springer, Eddie Murphy. Ora la mia domanda è: in che modo tutti questi attori sono diventati clienti della prostituzione? Consideriamo ora le forze sociali che caratterizzano la maschilità. La prima cosa da notare è il legame tra tratta e pornografia. La pornografia è, anzitutto, la legittimazione culturale della compravendita delle donne. La pornografia è in realtà la descrizione visiva del sesso con una prostituta. Impiega in realtà donne vittime della tratta. Non sappiamo di fatto quante sono le donne trafficate nella pornografia e l'argomento chiave di cui parlerò è il meccanismo che alimenta la domanda. Vi spiegherò il meccanismo che alimenta la domanda perché vi spiegherò come funziona l'industria del porno. Devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien, je m'interroge. Ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours: la vie, c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort. Et vivre relève de l'exploit. Los pueblos que no pueden olvidar. Per farvi un esempio di queste connessioni, quando facevo ricerca sul porno, mi sono imbattuta in un sito in cui i clienti fotografano i loro atti sessuali con le prostitute a loro insaputa. Usano il cellulare e poi le mettono sul sito e poi discutono su cosa gli è piaciuto e cosa no delle prostitute. È una sorta di condivisione di come deve o non deve essere utilizzata una prostituta. Ora, quando parlo di pornografia, le persone dicono sempre che è sempre esistita, ma io non condivido questa affermazione. Ad ogni modo, quello di cui parlo è l'industria del porno. La pornografia è l'industrializzazione del sesso ed è molto importante averne una comprensione in quanto industria, perché cambia il modo in cui noi ci rapportiamo ad essa. Il giorno in cui nacque l'industria del porno fu nel 1953, la prima assuefazione di Playboy. Mai prima di allora una rivista pornografica aveva circolato attraverso i canali principali del capitalismo. Questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di considerarla come un'industria. Dobbiamo pensarla con il suo business plan, dobbiamo pensarla come piccolissime SPA che si riuniscono e pensano a come pilotare la domanda del sesso, come costruire dei marchi. Dunque è molto difficile venire a capo delle statistiche, ma questa cosa produce 96 miliardi di dollari l'anno e badate che 96 miliardi di dollari comprano un sacco di politici in America. Ora per darvi alcune cifre. La pornografia costituisce il 36% della rete internet. Esistono più di 26 milioni di siti porno. L'industria del porno guadagna più di 3.000 dollari al secondo. Ci sono 40 milioni di consumatori regolari di porno in America. Un quesito su quattro riguarda il porno. Più di un terzo dei contenuti scaricati da internet sono pornografici. Ogni anno vengono immessi sul mercato più di 13.000 film pornografici. Vorrei farvi riflettere sul fatto che non è internet a pilotare l'industria pornografica, ma è l'industria pornografica a pilotare internet. I soldi immessi in circolo per lo sviluppo di internet dai pornografi sono assolutamente vitali per la costruzione di internet. E di recente a Londra si è tenuta una conferenza internazionale coi pornografi e si è parlato di come ora stiano immettendo soldi nella telefonia mobile. E sapete perché? Vogliono sviluppare gli schermi dei telefonini. Quel che hanno detto è che nei paesi che prima erano sovrappopolati come India e Brasile, in cui vivevano molte persone in un'unica casa, gli uomini non potevano scaricare la loro pornografia in mezzo al salotto perché c'era la famiglia assieme a loro. Quindi ora quei cellulari possono aprire il mercato all'India e al Brasile, che non si pensava che facessero uso di porno, perché ora si possono trovare posti tranquilli, d'accordo? Quindi questo è il tipo di ragionamento che fanno. Il fatto cioè che non possono accedere all'India e al Brasile perché le loro case sono sovrappopolate, così che ora i cellulari li fanno accedere a zone che prima erano sottopopolate. Ovunque c'è pornografia, seguirà la tratta e le donne prostituite. Per cui l'industria pornografica fa ragionamenti di questo tipo. Ora, il pornografo Andrew Edmond ha detto che un sacco di persone vengono distratte dal sesso e non prendono in considerazione il modello aziendale. L'unica differenza è che la pornografia è sfaccettata e multistratificata, come un qualunque altro mercato. Operiamo come una qualsiasi azienda Fortune 500. Pertanto la pornografia non è una vaga raccolta di immagini, non è una fantasia. La fantasia è qualcosa che accade nella testa. La pornografia avviene nel capitale bancario internazionale. Due luoghi molto, molto diversi tra loro. Di conseguenza, quando pensiamo al suo funzionamento, analizziamo come si sviluppa questa industria. Una persona interna all'industria del porno dice che la corporativizzazione del porno non è qualcosa che accadrà o che sta accadendo, è qualcosa che è già accaduta. E se non siete a conoscenza allora, non c'è davvero nessun posto per voi a tavola. È di nuovo una Las Vegas totale. I proprietari indipendenti, i criminali rinnegati e gli imprenditori lungimiranti sono stati accantonati dalle mega società. Per cui quello che succede è che i piccoli produttori da 4 soldi vengono schiacciati da grandi produttori da 4 soldi. E presenterò alcuni degli uomini che sono in sostanza i Walmart della pornografia. Oggi i soldi che circolano nella pornografia vengono immessi nella distribuzione, non nella produzione. Quindi cosa significa che la pornografia è un'industria? Significa che coltiva capitali, che assume manager e contabili, che subisce fusioni e acquisizioni, che organizza fiere commerciali, che stipula accordi di co-marketing con altre società, che crea società di investimenti, che possiede ditte di pubbliche relazioni e di importanza fondamentale, si interfaccia con banche, società creditizie, capitalisti di ventura, operatori via cavo, eccetera. Ogni volta che un uomo compra pornografia, c'è un addebito sulla sua carta di credito. Per cui pensate a tutti gli interessi costituiti che le banche di credito hanno nell'industria pornografica. Pensate alle connessioni con i media. Rupert Murdoch, ad esempio, che possiede la Fox, ad un certo punto ha fatto più soldi con la distribuzione del porno di qualsiasi altro essere umano, per via di tutte le società a cui la distribuiva. Lui rappresenta i valori della famiglia di destra, Rupert Murdoch, guadagnare soldi dall'industria del sesso. Quindi considerate la pornografia come l'industrializzazione del sesso. La pornografia sta al sesso, come McDonald's sta al cibo, d'accordo? Sono la stessa cosa. The term player hater, well, I hate to tell you, but it's played out. So now what you gonna do? Well, let me show you an example of what you could do. Yo, yo, yo, yo. You love's about to kick this, don't resist this. I'll take eight bars and flip that shit. Don't get it. And I got you dead center. Let's go for my world right. You try to mediocrity, stifling, spiking. The way you mislead as you succeed is a crime. Spesso in America, quando si fanno conferenze sul tema del genere, si parla di esseri umani che liberano il sesso. Come a dire che se stai contro la pornografia, sei contro il sesso. Quindi lasciate che vi chieda, se fossi venuta qui a parlare di McDonald's, di come sia causa d'obesità, di come distrugga l'ambiente, qualcuno mi avrebbe mai accusato di essere anticibo? Capite allora il senso di liberare l'industria? Perché allora se critico la pornografia divento subito antisesso? È come se la pornografia coincidesse col sesso. E questo è esattamente ciò che hanno fatto i pornografi. Quello che hanno fatto è far collassare la pornografia nel sesso. Per cui succede che quando criticate la pornografia tutti pensano che critichiate il sesso. E allora la gente ribatte. Se si eliminasse la pornografia, che cosa proponi di fare al suo posto? E la mia risposta a questa domanda è: se avessi detto di non mangiare il cibo dei fast food, qualcuno mi avrebbe chiesto di dargli qualche altra ricetta perché non sa cos'altro mangiare? Io non so cosa piace mangiare alla gente, e la stessa cosa vale per il sesso, ok? Sta a voi sviluppare i vostri gusti autentici. Quello che fa la pornografia è sostanzialmente mercificare e rendere i vostri gusti sessuali standardizzati e generici. Quindi pensate alla pornografia come un mondo che incanala la varietà dei gusti sessuali in una generica forma prestabilita. Ecco un esempio di come funziona questa industria. Avete mai sentito parlare di Real Dolls? Negli Stati Uniti, Real Dolls è una grande società e le immagini che vedete qui sono donne siliconate. Non vorrei dirlo, ma questo è quello che dicono, col viso a forma di bocca, di ano o di vagina. Hanno aspettato 6 mesi i clienti per avere queste bambole. Potete decidere le fattezze del viso, il trucco, potete personalizzare la vostra immagine e farla combaciare esattamente ai vostri gusti. Ogni anno a Las Vegas si riunisce l'enorme convention del porno, per cui l'anno scorso io, assieme ad altre centinaia di fan del porno, siamo andati a Las Vegas. Ho intervistato i pornografi per il mio libro, sono andata al tavolo in cui sedevano quelli di Real Dolls e la prima cosa che ho domandato loro è stata: perché credete che gli uomini comprino le vostre bambole? Uno di loro mi ha guardato con una faccia stralunata e mi ha risposto: perché così facendo sviluppano una relazione con le donne. Ad ogni modo, io non gli ho detto nulla perché lo stavo intervistando. Gli ho chiesto allora se avessero mai sentito parlare dei film Lars and the Real Girl e lui mi ha risposto: se ne abbiamo sentito parlare, siamo stati consulenti di quel film e il giorno stesso in cui è uscito il nostro sito è collassato perché troppi uomini volevano visitarlo. Quindi quando si ha a che fare con l'industria del porno, si ha a che fare con un potere politico, economico, sociale e culturale. Loro hanno il potere di definire l'orizzonte sessuale perché agiscono come un'industria. Siete d'accordo con me che McDonald's definisce il nostro modo di mangiare? Siete d'accordo che l'industria dei vestiti della moda definisce il nostro modo di vestire? Com'è possibile allora che l'industria del sesso sia l'unica industria che non ha influito sul nostro comportamento? Come sarebbe possibile una cosa del genere? Perché se la pornografia non plasmasse il nostro comportamento, allora tutto quello che conosciamo sulla sociologia, sulla psicologia, sarebbe sbagliato. Dovremmo concordare sul fatto che ciascuno di noi nasce con la propria sessualità che non viene minimamente intaccata dalla cultura. E sappiamo che questo è ridicolo. Sappiamo che la sessualità viene plasmata dalla cultura. Leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissances font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre, mère, patrimoine ancestral de vie. Considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. Playboy è in bancarotta. Sopravvive soltanto grazie alla sua politica di brand. Gayle Dines fa riferimento ovviamente al coniglietto di Playboy. E inoltre fa fertilizzazione incrociata con altre società di porno hard. L'unica differenza è che non opera col nome di Playboy, perché vogliono mantenere il loro marchio intatto. La Penthouse in realtà è fallita e la Hustler ha diversificato il suo prodotto, ok? Quando per la prima volta mi trovai a esplorare la pornografia, le cose non potevano andare peggio. Se qualcuno mi avesse detto 10-15 anni fa che Playboy, Penthouse e Hustler avrebbero visto giorni migliori, lo avrei considerato un pazzo. Se qualcuno mi avesse detto che la pornografia mainstream di oggi sarebbe diventata quello che è, non gli avrei creduto. Neanche per sogno le persone si sarebbero messe a braccia conserte e avrebbero lasciato che ciò accadesse. Ma mi sbagliavo. La ragione del perché nessuno parla di pornografia soft o hard è che la pornografia soft è migrata nella cultura popolare. Pensate solo al modo in cui 10-15 anni fa queste immagini sarebbero state considerate pornografia soft. Oggi, quando usiamo i media, diventiamo insensibili, tanto da raggiungere l'ipersessualizzazione, un fenomeno totalmente nuovo. Quindi, a causa dell'ipersessualizzazione della cultura, la pornografia deve diventare più hard per poter distinguere il suo prodotto da MTV, per esempio. Ora, per quale motivo l'industria del sesso pensa solo alla pornografia? Loro parlano di due cose, parlano di Fisher o di Gonzo. Ora, il porno Fisher è quello che si chiama il mercatino di coppia, per cui i film durano un'ora e mezza, con musica soft a volte e con delle storie, ma con del sesso hard. Ora, nelle mie interviste, quel che ho scoperto è che l'uomo che fa uso di questi film con la sua ragazza li usa per istruirla al sesso pornografico. Ad esempio, c'è un'ottima intervista in un film intitolato The Price of Pleasure sulla pornografia, un documentario in cui un ragazzo parla del fatto che voleva avviare la sua ragazza al sesso anale e, non sapendo come fare, le fece vedere un film Fisher con del sesso anale. Lui la osservava, si concentrava sul suo comportamento per indovinare fino a che punto introdurlo nella loro vita sessuale, in modo da non considerarla più esperta quando lei non lo guardava più. Per cui, se un maschio vi introduce al porno Fisher, generalmente vuole abituarvi a fare sesso pornografico con lui. Ora, questo è ciò che guardano donne e uomini insieme. Quando gli uomini sono da soli, invece, quello che guardano è il porno gonzo. Questo è, in parole povere, porno hard, senza alcun contenuto narrativo. Il padre di questo tipo di porno hard è un uomo di nome Max Hardcore. Lo avete mai sentito? Sul suo sito scrive: «Obbligo le mie ragazze a bere la mia urina, le prendo a pugni, gli riempio il culo e gli trapano la gola finché non vomitano. È un sadico del sesso. Un sadico del sesso in tutto e per tutto. È uno degli industriali di punta dell'industria del porno gonzo». Quando iniziai a svolgere le mie ricerche, mi sono imbattuta in Max Arkrom 15 anni fa. Quando ho intervistato quelli dell'industria del porno, mi dissero che non si sarebbero mai avvicinati a Max Hardcore. Nessuno avrebbe mai comprato i suoi film. Lui era troppo distante da loro. Quando ero a Las Vegas, aveva il negozio più grande al centro del salone di Las Vegas e le file del suo stand per chiedergli l'autografo erano quelle più lunghe. Adesso è l'apice e il fulcro dell'industria del porno. Non c'è modo migliore di raccontare la storia della pornografia come quella della totale marginalizzazione di Max Hardcore fino all'apice e al fulcro dell'industria del porno. Ora vi spiegherò cos'è il porno gonzo e come funziona. تشنه بودیم گشتایی خدا خورده تشنه بودیم عشقایی خدا خورده گشتایی بودیم گشتایی خدا خورده تشنه بودیم عشقایی خدا خورده گفتیم اروپا میریم شاید بیغنی باشد شاید زندگی کنیم شاید دل جمعی باشد دکم های مجیری مانده پسیدیم وطن دخل دیدیم خاکای شب بسیدیم در وطن پاچایی بود خوشحال از روی چه شده ما در اینجا خوشخواب شوی و مادر شوی I don't know Oh my God not only brilliant. when she creates kitchen cornucopias and savory suppers from scratch and scraps and almost empty pockets and nothing. She is also brilliant when she creates life and sweet milk meals for new nestling mouths that depend on her to flourish and sprout. She is not the servant, slave, foot soldier. Dunque, la prima cosa che si nota nel porno gonzo è che non c'è nulla di simile a una donna. Sono sgualdrine dagli occhi a mandorla, buchi, fighe e cassonetti di sperma. Ora, perché tu uomo lo fai? Lo fai perché evitano che l'uomo, che si sta masturbando fino al punto da rasentare la crudeltà sessuale, veda una qualche umanità in quella donna. Giacché molti uomini che fanno uso di porno non sono dei sadici. Per cui la domanda rivolta all'industria del sesso è: come riesci a convincere degli uomini che non sono dei sadici sessuali a masturbarsi e ad eiaculare fino al punto di diventare dei sadici sessuali? Questo è il problema. Siamo d'accordo tutti che un ragazzo di 12-13 anni non è un sadico sessuale, giusto? Ma usa materiale che è sessualmente sadico. Quindi cosa fai? Fai quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei, fai quello che i bianchi hanno fatto ai neri, fai quello che gli eterosessuali hanno fatto ai gay e alle lesbiche. Le disumanizzi. Loro non sono come me e come voi, loro sono diverse. Le donne nel porno non sono donne, ma sono sgualdrine e cassonetti di sperma. Per cui lui mette una barriera tra voi e le donne che conoscete. Come sua madre, sua sorella. Lei non farebbe mai una cosa simile. Ma quella puttana, quel buco, quella troia lì, lei è diversa, non è come le altre. MIWLF è l'acronimo di Mother, I Would Like to Fuck. Mamma, vorrei scopare. È diventato oggi un termine comune in America e proviene in realtà dal film American Pie, che in realtà è un film per adolescenti. Per cui questo termine è nato nella cultura popolare e poi è passato alla pornografia e ora lo trovate ovunque. Quindi quel che fanno innanzitutto, e questo è molto importante per la tratta, poiché quel che stiamo affermando è che le donne nell'industria del porno sono diverse dal resto delle donne che conosciamo, è innalzare questa barriera, per cui quando si arriva al sadismo sessuale, loro non guardano in faccia quelle donne e non le vedono come esseri umani, quanto piuttosto come delle sgualdrine o dei buchi. E vi posso assicurare che quando faccio le mie lezioni universitarie in America, gli uomini sostengono che alle donne nella pornografia piace assolutamente fare quello che fanno. Io allora rispondo: ditemi allora, avete svolto degli studi empirici, ne avete intervistate alcune? E loro ribattono che, certo, è evidente che gli piace fare quello che fanno. E la cosa interessante è che accade anche il contrario, che cioè vengano considerate delle brave attrici. Queste donne non sono delle brave attrici, d'accordo? Puoi vederle piangere, puoi vederle scioccate, ma alla fine non gli piace fare quello che fanno. Non sanno cosa fare, mentono completamente. Quindi, addentriamoci nei contenuti della pornografia e cominciamo con il gonzo molto standard. Come definite il gonzo? Sapete, spesso le persone mi domandano: che definizione dai alla pornografia? Questa è la prima domanda che mi fanno. Ora, se io venissi qui a parlare dell'industria automobilistica, qualcuno mi chiederebbe con insistenza di definire un'auto prima che ne cominci a parlare. Siamo tutti d'accordo che se l'industria automobilistica continua a produrre quella cosa che va su quattro ruote e ha un volante, è una macchina, lo prendete più o meno per buono, giusto? Se l'industria del porno produce questo, prendo per buono che si chiami pornografia, non dovete spendervi in discussioni su come è e come non è. Se ne volete una definizione accademica, io personalmente preferisco attenermi a ciò che l'industria ci dice. Ora parliamo di quello che è gonzo. Come riconoscete il gonzo? L'atto principale del gonzo è soffocare la donna con il pene finché lei non si strozza. Finché non si strozza, nel vero senso della parola. Il trucco le scorre sul viso, soffoca e a volte vomita, e il suo vomito rimane sulla scena del film anche dopo. Quindi questo è il gonzo numero uno. E vorrei dire una cosa con molta chiarezza: la pornografia di cui stiamo parlando ora è pornografia mainstream. Questo è il tipo di pornografia, cioè, che vediamo quando un ragazzino di 11 anni e mezzo digita sulla sua tastiera la parola porno su Google. Questo è quello che gli appare. Non appare nient'altro. Quando stavo scrivendo il mio libro, passavo ora a cercare il porno non gonzo. Mi sono imbattuta in questo sito e a questo punto Geldines mostra un'immagine allo schermo. Nel giro di 15-20 secondi. E se mi ci imbatto io in 15-20 secondi, figuratevi un ragazzino di 12 anni in 10 secondi. Lo capite quello che voglio dire? Voglio chiarire qui che non avevo intenzione di avvicinarmi al peggio dell'industria. Non la sopporto, ma questo è il porno mainstream. Vi rendete conto? Quindi, un ragazzino di 11 anni e mezzo, eccitato, digita porno su Google. Lui pensa di visualizzare dei seni, solo che visualizza questo. Ora, la mia domanda è: come riescono a tenerlo connesso al loro sito? E i pornografi ci pensano con molta attenzione. Ora, permettete che vi legga un testo estrapolato dal sito Gag Me and Fuck Me, ossia strozzami e scopami. Cito: sapete cosa diciamo a quelle cose come le storie d'amore, i preliminari amorosi? Diciamo: vaffanculo. Questo non è un altro sito di quei pistolini mezzi rizzati che cercano di fare colpo su intrepide sgualdrine. Prendiamo delle splendide puttane e facciamo quello che ogni uomo vorrebbe fare veramente. Le facciamo strozzare finché il trucco non comincia a colargli addosso e poi non gli si infiammano tutti i buchi della vagina, dell'ano, penetrazioni doppie, qualunque cosa violenta che implica un cazzo e un orifizio. E poi gli facciamo il bagno appiccicoso. Ora, tutto questo è molto scaltro, continua Geldines. Pensate a come queste parole turbino un bambino. A 12 anni non pensa di visualizzare questo sito, quindi quale sarà la sua reazione quando vedrà Gag Me and Fuck Me? Oh, questo è quando Geldines sussulta a un certo punto e si mette le mani tra i capelli. Dico bene? Continua. Chiunque di voi ha un figlio di 12 anni lo capisce. Ricordate i vostri figli a quell'età. Mio figlio scatterebbe sulla sedia se leggesse una cosa simile. Ma guardate quello che dicono, proprio così. E cita: facciamo quello che ogni uomo vorrebbe fare veramente. Vedete cosa fanno? Stanno lanciando un'esca. Stanno dicendo al dodicenne: sei un vero uomo, perché se lo sei questo è quello che vuoi fare. E cosa dirà il dodicenne? Non sono un vero uomo, non posso affrontare una cosa del genere. Perché lui sta sviluppando la sua maschilità. Ora, come sviluppate la vostra maschilità? Ve ne andate a spasso per la cultura e intuite cosa significhi essere un uomo. Anche le donne fanno lo stesso e intuiscono cosa vuol dire essere una femmina. Noi abbiamo Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, mentre loro hanno questo. Ed è un modo molto astuto per accalappiarli a livello psicologico. È come tendergli una trappola. Questo è quello che stanno facendo, perché quello che spiegherò è che il ragazzino che viene citato viene anche traumatizzato. Ed è per questo che dobbiamo pensare al ragazzino come una vittima dell'industria del porno. Fare questo a un dodicenne significa vittimizzarlo e traumatizzarlo, perché questo non è quello che cerca. E sapete una cosa? Questa è l'età in cui si sviluppa il suo modello sessuale. Quindi più sviluppa il suo modello sessuale attraverso il porno e più il porno plasma il suo comportamento. Più il porno lo plasma e con maggiore probabilità è destinato a diventare un cliente della prostituzione. Poiché quante donne troverà? Perché lo farà? Vorrà fare queste cose? E quello che sta accadendo è un aumento della domanda. Single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still, saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become. Ora siamo ai saluti, continueremo con l'analisi di Geldines ed altre, insomma, sull'argomento. Vi salutiamo e vi ricordiamo che se volete commentare o scambiare impressioni sulla trasmissione o su altro, potete scriverci all'indirizzo di posta connettive@gmail.com. Vi ringraziamo per essere stati con noi e alla prossima puntata. Joy, I feel so much. My hair is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, my eye. True honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me, I know who I is. I know who I is. I know who I is. I know who I is. I is. Nanny, mulatto, welfare mom, matriarch, midwife. Boys up.